1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7 e 18 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali come sempre nel momento in cui si chiude la 59esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché per l'abolizione delle province, ma siamo a un passo, così almeno raccontano da un paio di giorni i giornali. E vedremo se è così. Noi oggi torneremo anche a raccontare quel che sta succedendo in Iraq, dove avete sentito Obama ha deciso di mandare 300 consiglieri militari, il che vuol dire che tornano le truppe americane in Iraq? No, non proprio, almeno non così secondo la versione di Obama. Tra l'altro ci collegheremo con il nord dell'Iraq, con Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera. Avremo ospite anche Cecilia Strada, che è presidente di Emergency. Avremo ospite anche, parleremo di Africa, Giulio Albanese, padre Giulio Albanese, direttore di Popoli e Missione, perché racconteremo, se volete, nel giorno in cui tutti aspettano Italia, Costa Rica, a gioire, si spera, per la partita del campionato mondiale dell'Italia. Bene, sappiate che in Africa guardare una partita di calcio in alcune zone può costare anche la vita. Notizia di qualche giorno fa, no? Attentati soprattutto in Nigeria, soprattutto in Kenya, per chi guarda l'infedele calcio durante i mondiali. Ne parliamo più tardi, ora andiamo a leggere i giornali. In questo venerdì 20 giugno, intanto i titoli, Il Sole 24 Ore apre sul Fondo Monetario Internazionale, la BCE acquisti bond, questo è il titolo di prima pagina. Per il Corriere della Sera ancora in primo piano il delitto di Yara, non mi arrendo al DNA, e parla, tra poco lo vedremo, la madre di Bossetti. Berlusconi torna all'attacco, vuole la grazia, così titola Repubblica in primo piano, mentre Libero, le tre mosse di Renzi per prendersi i giudici. Senato, c'è l'accordo, Renzi chiama Grillo, questa è l'apertura della Stampa proprio ieri, a questi microfoni l'appello del vicepresidente della Camera Di Maio del Movimento 5 Stelle, che diceva: Renzi, allora ci vuoi incontrare o no? E a sera è arrivata la risposta del Presidente del Consiglio. Anche per Il Messaggero l'apertura è su Yara, killer ancora pericoloso. Yara, giudici allo sbando, invece è il titolo del giornale, e Il Secolo XIX è il primo giornale che pone un fronte, apre un fronte, come dire, uguale, opposto a quello dei giorni scorsi. Mette la foto della persona in carcere, e se non fosse stato lui, ora si apre questo fronte. Allora partiamo proprio da qui. Le novità di ieri è che il GIP non ha convalidato il fermo tramutandolo in arresto. Nonostante ciò, Massimo Giuseppe Bossetti, che si proclama assolutamente estraneo, innocente e incastrato in questa vicenda, rimane in carcere perché è descritto nell'ordinanza del giudice come feroce, senza freni inibitori, potrebbe insomma uccidere ancora. Non sussiste il pericolo di fuga, visto che non ha mai avuto queste intenzioni in questi anni, ma potrebbe uccidere ancora, si legge. Ma oggi sicuramente l'intervista del giorno ce l'ha il Corriere della Sera. La mette infatti a pagina 3 Giuliana Ubbiali, intervista Ester Arzuffi, la mamma di Massimo Giuseppe Bossetti, colei insomma che viene anche additata come colei che tradì il marito 40 anni fa con l'autista di Gorno Guerinoni. La scienza ha sbagliato, Massimo non è un killer ed è figlio di mio marito, così si difende Ester. Non ci credo, dovrei guardarlo in faccia per capire se dice la verità, ma non può accadere perché non è vero. Non può accadere, cioè, che mio figlio confessi. Senta, lei è, dai test del DNA dicono che suo marito, che Giuseppe Massimo, non è figlio di suo marito, ma di Giuseppe Guarinoni. Per gli investigatori è così, ma per me no, al 100% non sono mai stata con Guarinoni. Inizia così, poi racconta il momento dell'arresto. Che vuole che dica, che menta, a meno che il mio cervello non abbia resettato tutto? Questa è la verità, io ne sono la prova, so che vado alla gogna, che mi criticheranno, ma è così. Vivevo, certo, a Ponte Selva come Guerinoni, ma lui era solo una conoscenza. Mio marito aveva chiesto a lui, a Vincenzo Bigoni, di portarmi al lavoro, in auto, alla Festi Rasini, perché già andavano in zona. Poi la sera tornavo in autobus, ma tra conoscere una persona, averne intimità, ce ne passa. Guardi, io non sono scappata per fuggire da qualche scandalo. Vuol sapere com'è andata? Mio marito voleva cambiare lavoro, quindi ci siamo messi in macchina, siamo andati alla ricerca di un altro posto. E poi ci siamo trasferiti nel 1969 a marzo-aprile e loro, cioè i figli, sono nati a ottobre del 70, peraltro con un mese di anticipo. Mi dice come possono essere figli di Guerinoni? Vede che le date e le altre cose non tornano? Al che il Corriere chiede, beh, ma lei potrebbe aver mantenuto i contatti con Guerinoni. No, invece li ho interrotti. Poi veniamo alle cose più odierne. In questura ho detto a mia figlia, l'altra mia figlia, la vera questione del padre non è vera, e lei mi ha risposto, mamma, ti credo. E quando parlavamo di Yara, mio figlio, non ho mai captato nulla, non ho mai avuto nessuna reazione da parte sua. Certo, invece sua nuora non le crede, è vero. E questo mi ha ferito, faceva così e alza le mani ai lati del volto, urlando, Esther, dovevi dirmelo, ma io le ho risposto la stessa cosa, la verità è un'altra. E comunque, conclude l'intervista, mando un abbraccio a mio figlio. Voglio guardarlo negli occhi e dirgli non sei figlio di quell'altro. Questa insomma è anche la vicenda umana all'interno della vicenda dell'inchiesta. Anche la gemella di Massimo dice è innocente, l'hanno incastrato. Intervistata da Gabriele Moroni e Luca Balzarotti per il Quotidiano Nazionale, sul DNA dice non commento, ma mio fratello non c'entra niente, me lo dice il sangue, ne sono sicura al 100%. Non lo dico solo per i sentimenti, lo conosco, siamo cresciuti insieme, non sarebbe capace di far male a una mosca. Vabbè, insomma, queste sono chiaramente le difese giuste, legittime, anche di legame da parte dei familiari. Sta di fatto che la persona, lui, protagonista, indagato per l'uccisione di Yara, dice la sera in cui sparì io ero a casa. E quindi la sua difesa è totale da questo punto di vista. L'unica cosa che dice, non mi spiego ed è una cosa assurda, non mi so spiegare perché quel DNA è sul corpo di Yara. E quindi questa è la versione. Ma c'è da dire che appunto i giornali, in primis Il Secolo XIX, ma anche il titolo del giornale, guardate il titolo del giornale, Yara giudici allo sbando, e ancora anche Il Secolo XIX e anche Libero dice e ora sulle prove spuntano i dubbi. Insomma, dopo aver sbattuto tutto il mostro in prima pagina, ora dicono forse non è lui, e c'è una, come dire, un'inversione. Come detto, cambiando tema, noi parleremo invece alle 8:40 circa anche di quello che succede in Africa, dove guardare una partita dei mondiali a volte può costare la vita, che è un pretesto per raccontare anche una storia, spaccati che magari affrontiamo meno tutti i giorni. È l'apertura di Avvenire, in qualche modo, quello che è il dramma di molte persone in Africa. Oggi infatti ricorre la giornata mondiale del rifugiato. Fuga dalla violenza, questo è il titolo di prima pagina di Avvenire. Ci si concentra soprattutto sull'odissea dei ragazzi eritrei che sognano l'Europa. E racconta Paolo Lambruschi a pagina 19 di Avvenire la fuga di Khaled e Walid, ragazzi soli in fuga dall'Eritrea, iniziata 18 mesi fa. Sono cugini rispettivamente di 17 e 14 anni, vengono da un villaggio di campagna scappati per non venire reclutati dall'esercito dello Stato caserma che arruola i giovani per un servizio di leva infinito. Loro invece giocano bene a calcio e sulle loro facce indurite si illumina un sorriso infantile quando confessano il sogno di diventare calciatori e restituire alla famiglia i soldi. Sono arrivati in Italia, li ha portati in Sicilia l'8 giugno una nave dell'operazione Mare Nostrum. Dopo 3 giorni a Catania sono partiti per Roma, dove si dorme pagando nelle case occupate di via Curtatore Lione o alla Romanina. Poi i trafficanti li hanno mandati a Milano. Destinazione finale nei loro piani è la Norvegia e stanno attraversando due continenti per chiedere asilo e un futuro. Come gli altri 6.000 minori non accompagnati su 58.000 persone sbarcate sulle coste italiane nel 2014. Questo è il dato che rivela il rapporto Save the Children, titolato L'ultima spiaggia. Spesso fuggono da zone difficili queste persone. Ne parleremo alle 8.40 con padre Giulio Albanese. Intanto andiamo a sentire un attimo la pubblicità, poi ci tuffiamo sulle cose italiane, la politica, le riforme. Siamo davvero a un passo, come qualcuno assicura, oppure no? 24 mattino. Allora, alle 7.34 minuti arrivano le riforme, chissà, certo tutti i giornali sono sempre più ottimisti, Intesa, PD, Forza Italia, ecco il Senato dei 100, titola così per esempio il Sole 24 Ore a pagina 11, il Senato dei 100 comincia a prendere forma concreta, nero su bianco. Negli emendamenti che i relatori Finocchiaro e Calderoli stanno predisponendo saranno presentati forse già stasera. Beh, verrebbe da dire dopo la partita di calcio dell'Italia, immagino. Comunque c'è tutto aria di grande intesa, anche per esempio ieri a questi microfoni Luigi Di Maio alle 8.45 diceva di buon mattino. Renzi, perché non ci rispondi? Ti abbiamo fatto un invito. È arrivato a sera la risposta di Renzi. Renzi che dice a Grillo: nessuno ha la verità in tasca, tutti possono dare una mano, incontriamoci mercoledì prossimo in un orario da stabilire insieme. E dunque anche per la stampa Renzi Grillo, carta sorpresa nella strategia del dialogo. Insomma, tutto bene? Beh, certo, ci pensa Calderoli a pagina 2 della stampa, intervistato da Amedeo la mattina, a mettere qualche dubbio. Calderoli profetizza: alla fine Berlusconi si sfilerà. Roberto Calderoli, definito dalla stampa il migliore interlocutore del PD, dice: si sfilerà qualcuno. La Lega certo di no, la prima che mi viene in mente è Forza Italia. Nella primavera del 2015 può succedere di tutto, ci potranno essere disgregazioni varie, già assistiamo a quella di Sel. Non escludo che qualcosa del genere possa accadere in Forza Italia. Non credo che Berlusconi voglia veramente regalare le riforme a Renzi. Ho sentito Romani dire, è come dire... dopo l'incontro col ministro Boschi si sono fatti passi avanti, ma rimangono aperte questioni centrali. Come se dicesse: mia figlia è incinta solo un pochino, dice Calderoli. Invece siamo al dunque, al test di gravidanza. Forza Italia ancora un leader? Non lo so, noi ce l'abbiamo. Certo, non direi mai che è allo sbando di una forza politica alleata e non lo dico neanche di Forza Italia. Mentre di Renzi, dice Calderoli, è furbo, intelligente, molto spregiudicato, mi sta personalmente simpatico perché molti italiani tra la bastonata certa e l'illusoria promessa scelgono l'illusoria promessa. Questo Calderoli che dunque frena un po' gli entusiasmi, addirittura frenarli di più è Repubblica, che mette questo titolo di prima pagina: Berlusconi torna all'attacco, vuole la grazia. Pagina 2, il retroscena di Francesco Bei: noi stiamo riscrivendo la Costituzione per la Terza Repubblica e questi qui mi trattano come un volgare delinquente. Così, uscito dal Tribunale di Napoli, dove ieri ha fatto una testimonianza al processo La Vitola, l'umore di Silvio Berlusconi sotto i tacchi. Non a caso rilancia questa idea, l'accordo a 360 gradi, fare le riforme, attendere che Giorgio Napolitano si dimetta per poi rilanciare sul tema della grazia. Dietro questa strategia del rinvio si nasconde l'operazione politica. A torto o ragione, scrive Repubblica, Berlusconi è convinto che se parteciperà alla rinascita dell'edificio istituzionale della nuova Repubblica, questo non possa non avere conseguenze sul suo destino giudiziario. E visto che Napolitano si dimetterà una volta assicurato l'iter delle riforme, il leader di Forza Italia punta a partecipare in prima persona al patto con Renzi per l'elezione del nuovo capo dello Stato. Questa è l'idea. Certo, ieri È stata una giornata molto difficile. Berlusconi ha litigato furentemente con i magistrati nella deposizione. Raccontano in aula, ieri ha detto la magistratura è incontrollata, incontrollabile, irresponsabile. Questo ha detto davanti ai magistrati che lo interrogavano come teste al processo La Vitola. A un certo punto Berlusconi dice: non capisco il senso di alcune domande, e risponde il pubblico ministero Vincenzo Piscitelli: signor giudice, non può intervenire così il teste, e il giudice: non c'è alcun bisogno che lei capisca, funziona così. A quel punto l'affondo contro la magistratura incontrollabile, incontrollata ma ancora tutelata dal codice, aveva detto il giudice, rispondendo alla magistratura incontrollabile e irresponsabile detta da Silvio Berlusconi. Insomma, un ritorno, un déjà vu certamente, che però ieri ha avuto, come dire, anche un drammatico confronto all'interno dell'aula a Napoli. Sarà di fatto che certamente tutti i giornali fanno notare Berlusconi è anche molto nervoso, perché oggi si apre l'appello al processo Ruby. Concussione e prostituzione minorile sono le accuse, c'è stata già la condanna in primo grado a 7 anni, e dunque il rischio che davvero con una condanna in secondo grado ci sia un macigno sulla carriera politica di Berlusconi. Oggi parla proprio Ruby, intervistata dal Giornale, da Luca Fazzo, pagina 4. Berlusconi condannato per nulla, dice: non verrò al processo. Intanto il soprannome Ruby me lo trovai quando avevo 9 anni, ma mi pesa, vorrei liberarmi di tutto, vorrei tornare a essere Karima. Quanto deve durare questo massacro, si chiede Ruby. Eppure il Giornale dice: scusi, ma lei converrà che ci ha messo del suo. Nelle intercettazioni lei diceva di aver avuto rapporti con Berlusconi, citiamo: l'altra è la pupilla e io il culo, tanto per dire. Ma risponde Ruby: avevo 17 anni, ero totalmente allo sbando, in quelle telefonate mi attaccavo a amiche che amiche non erano. Il problema vero è quello che è successo dopo. Io ho fatto errori di gioventù, ma non devo pagare in eterno. Ho capito che volevano farla pagare a Berlusconi, ma la verità, ancora dice Ruby, è che Berlusconi mi ha rispettato più di tutti gli uomini che ho incontrato nella mia vita precedente in locali e discoteche. E ancora, i 5 milioni che mi ha dato Berlusconi non sarei ridotta a chiedere soldi ai miei suoceri per fare la spesa se me li avesse dati. Invece quando cerco lavoro tutti dicono: ma cosa vuole questa? Ha avuto 5 milioni e vuole lavorare? Chissà cosa c'è sotto. Ora ho trovato un posto in un ristorante a Milano, ma se va male anche lì andrò dalla Boccassini a chiederle di prendermi come donna delle pulizie. E ancora, in irrefrenabile, Ruby dice: io ho incontrato Ilda Boccassini la prima volta in aula, mi accusò anche di furbizia orientale. Ho letto quella frase e mi ha lasciato di sasso, non mi è sembrata per niente garbata né nei miei confronti né delle donne orientali. Poi mi stupisco che non sapesse che il Marocco non è in Oriente. Magari adesso faccio una colletta e le regalo un atlante o un mappamondo. Conclude Ruby: mi sento trattata come un killer, mentre i veri killer sono a piede libero. Questa è la testimonianza di Ruby. Detto che la vicenda di La Vitola ha fatto irritare il Premier, c'è un'altra frattura, che è la frattura di Sel. Sel politicamente è abbastanza in crisi, a pezzi, 4 dimissioni, altri 10 vanno verso il PD. Renzi dice: da noi porte aperte, ma certamente sono usciti il capogruppo migliore, Fava, Di Salvo, Piazzoni. Fa un'intervista a Repubblica Nichi Vendola, dice: non ho pensato di dimettermi, il mio mandato è sempre a disposizione, sono amareggiato, non ci sono né traditi né traditori, ci sono scelte politiche, Sel non è finita. C'è una spaccatura, una frattura, ma ricominciamo e ricominciamo da 1.200.000 voti che sono frutto dell'investimento nell'altra Europa con Tsipras. Così intervistato da Giovanna Casadio, dice Vendola, che però nel titolo è definito Vendola, sotto shock ma non siamo morti e non finirò renzista. A proposito di renzisti, voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. No, scherzo, mi è venuta così. Buongiorno Alessandro, però mi sembra un po' così azzardato da parte tua dichiarare la mia appartenenza politica, che poi può essere giusto, può essere sbagliato. Non prendiamo posizione, noi siamo con la cultura oggi. Hai visto, abbiamo fatto questi gli Stati Generali della Cultura ieri, sono un'iniziativa proprio del Sole 24 Ore e insomma Franceschini, il ministro, ci ha detto che cambia un po' di cose, le tariffe, gli orari, e noi anziani diciamo avremo meno agevolazioni per entrare nei musei, d'altra parte a favore dei giovani, insomma, è sempre a favore dei giovani, visto che c'è un'iniziativa interessante del ministro dell'istruzione che dice insegniamo la storia dell'arte in tutti i licei, e direi che non possiamo che essere d'accordo. Ha detto che servono anche un po' di soldini, ma che vanno trovati. Tu cominci a mettere i 2 euro, ecco, quando, fatti non fumo a vivere come bruti, direbbe il poeta. Capite, cari ascoltatori, ora avete capito tutto. In che senso? No, nel senso il livello di Mauro Meazza. Il livello si cerca di tenerlo sempre adeguato, diciamo così. E volevo dirti che il garante della privacy ha precisato che quando facciamo gli acquisti, da tablet o da smartphone, non è che si devono poi approfittare per pizzicare i nostri dati personali, cioè, se proprio li vogliono ce le dovrebbero chiedere. Lo riferiamo oggi, indovina un po' dove lo spieghiamo, nelle pagine di norme e tributi. Sei incerto, perché giustamente ti volevo segnalare anche un'altra cosa, che sempre oggi c'è una prima riunione per ristabilire il fixing sull'argento. Questa volta lo riferiamo nelle pagine di finanza, però scrive la collega Sissi Bellomo, che peraltro ha lavorato anche in altri anni a Radio 24. Come no, mitica Sissi. Volevo poi segnalarti che oggi si chiude la 59esima settimana decisiva, dico bene, assolutamente, cito Alessandro 59esima, Milana. Sì. Ecco, 59esima settimana decisiva, però oggi potrebbe aprirsi la nuova era del fisco più semplice. Vedremo se ci sarà questo varo di tutte queste misure di semplificazione che ancora, insomma, cui ancora si sta lavorando. Ne riferiamo sul Sole 24 Ore, non in norme e tributi, nelle primissime pagine di norme e tributi, e poi vedremo lunedì, potremo commentare. Speriamo che tutto questo non avvenga attorno alle 18, perché anche infatti è il momento del pronostico, non puoi scampare, caro Mauro. Ma l'altra volta non ho detto niente e adesso non dico neanche niente. Io non voglio dire nulla, proseguiamo con questa cosa che tu mi chiedi il pronostico, ma io non faccio nulla. Alcun pronostico. E pensi di vincere il mondiale così, con questa cialtronata? Guarda, io do una sola parola per te a questo punto, traffico. Va bene. Alessandro Milan, le mani sul volante dell'informazione. Eccoci qua con le mani sul volante, sempre, cari italiani, alle 7:48 minuti. Dicevamo di Sel, che certamente è a pezzi, come viene definita da alcuni giornali, 4 di Sel, vale a dire il capogruppo migliore, oltre a Claudio Fava, Titti Di Salvo, Ileana Piazzoni, hanno lasciato Sel. Non dice non siamo morti Nichi Vendola e Gennaro Migliore fa una serie di interviste all'Unità, al Manifesto, al Secolo XIX, al Corriere della Sera con Tommaso Labate. Più che un'intervista è una sorta di dialogo. Migliore dice: il groppo in gola, lo sapete che non sono uno troppo incline ai sentimentalismi, no? Ma visto che in una chiacchierata ci sono delle pause che non si possono nascondere all'interlocutore, ecco la verità che viene a galla, con una confessione di Migliore. No, non ho pianto, ma il groppo in gola c'è, quello non si può nascondere. Di lui Vendola dice: è come un figlio, ma ha detto anche la frase: di sequestro, ha detto, ha sequestrato la linea politica. Non è questo il momento di lanciare accuse, non sarebbe neanche il caso di parlare degli errori fatti, ma una cosa che mi ha fatto incazzare di Ninchi c'è stata. È stata proprio questa frase in cui mi ha accusato di sequestro di linea politica. Vabbè, ovviamente Sel si sfalda, questo è il titolo anche del Corriere, Sel perde i pezzi, questo è il titolo del Secolo XIX, Sprofondo Rosso, questo è il titolo di Libero. Sta di fatto che, a parte tutte le analisi politiche, forse la sintesi più brutale, come spesso gli accade, viene fatta da Iena. Pagina 3 della Stampa, Sel, sinistra, eutanasia e libertà. Questo è l'acronimo per Iena. Torna a parlare, lo ha fatto credo a Repubblica e oggi viene intervistata anche dal Fatto Quotidiano, Claudia Minutillo. Claudia Minutillo è la ex segretaria di Galan, evidentemente ha deciso di avere una visibilità mediatica. Conosco a memoria le tangenti di Galan, questo è il titolo, l'intervista di Sandra Murri, dice: più che per riconoscenza mi hanno cacciato lo stesso Galan e poi mi ha messo ad Adria Infrastrutture della Mantovani per il terrore che parlassi. Sono stata al suo fianco fino al 2005 e ho raccontato tutti i fatti prescritti. Alla domanda sapeva che Galan prendeva le tangenti? Sì, certo, me lo confidava lui e chi gliele dava? Imprenditori vari, ho fatto i nomi ai magistrati, durante una campagna elettorale gli portai io una busta consegnatami da Baita. Vabbè, questo ovviamente, come al solito, è la versione di parte di Claudia Minutillo, poi andrà verificata in caso. Parleremo anche di Iraq. Ebbene sì, alle 8:15, perché? Perché Obama ha deciso l'invio di truppe speciali, 300 consiglieri militari, con l'assicurazione non torneremo a combattere, come si legge su tutti i giornali, sul Corriere della Sera. Interessante anche l'analisi di Daniele Ranieri in prima pagina del Foglio, il titolo è... Daniele Raineri, ovviamente, il titolo è: come abbiamo perso l'Iraq. Obama dice che Maliki ha molte colpe in Iraq, Maliki è il premier, ma il patto con lui è saltato quando ha deciso il ritiro. E infatti anche in un retroscena di Repubblica si racconta di come Maliki, nel resoconto da Erbil di Marco Ansaldo, accusa anche l'America e a sua volta viene accusato di essere colui che ha portato l'Iraq in pezzi. Una situazione discretamente confusa, una situazione che rischia davvero di portare a nuovi focolai di guerra. È finita con le tasse? Chi lo sa se è finita con le tasse? Leggete l'articolo di Franco Bechis su Libero a pagina 10: con il decreto competitività aumenta pure la benzina. La benzina, ma non è un aumento di domani, di dopodomani, eccetera, ma tutte le fregature nascoste nella norma che dovrebbe dare impulso all'economia. Si stabilisce per l'ennesima volta la tassa futura. Nel 2019 incrementi sulle accise che peseranno per circa 150 milioni di euro all'anno. Non avete capito male, dal 2019 già deciso l'aumento delle accise, racconta Libero. La tassa a futura memoria. Vabbè dai, c'è la partita dell'Italia, rallegriamoci così almeno fino alle 18, poi staremo a vedere come va a finire. Io pronosticherò ovviamente un bel 2-0 per l'Italia, così toccate tutto quello che volete. Avanti ragazzi, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Contro i costaricani a Recife conta solo vincere per ipotecare la qualificazione agli ottavi. Questo è il titolo della Gazzetta, ricordate, alle 18 Italia-Costa Rica, ve ne accorgerete perché l'Italia si fermerà, compresi tutti i servizi pubblici, eccetera. No, sto scherzando ovviamente, però chi lo sa. Ma siamo al momento conclusivo, quello della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi vince, stravince Marisa Fumagalli sul Corriere della Sera, che ci informa che arriva il gran galà con 3.500 invitati per il nuovo Yacht Club di Monte Carlo, firmato dall'architetto britannico Norman Foster. che sarà l'invitato d'onore insieme a una lista di ospiti bloccata. A parte i soci del club, c'è posto per i numerosi amici del principe Alberto. Moe Chandon per tutti, dress code non obbligatorio, bianco e blu. Signore e signori del bel mondo monegasco internazionale saranno accolti dal principe Alberto II. Tra l'aristocrazia presente Camillo e Carlo di Borbone, Serge di Jugoslavia, Emanuele Filiberto, ci sarà concerto, musica pop, cena buffet con danze che chiuderanno la serata. Ma io dico, ma sul Corriere della Sera la carta costicchia, eh? Costicchia. Dai, andiamo al giornale radio.